Esatto. Punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24 e di Punto e a Capo, benvenuti al nostro appuntamento settimanale, quello in cui facciamo il punto insieme su quanto detto, scritto, sentito, raccontato nel corso della settimana che si va a concludere. Proprio, come dire, in zona Cesarini tornano protagoniste le agenzie di rating, la tripla A francese che viene messa in discussione, insomma tutti gli approfondimenti che avete sentito nei nostri GR questa mattina. D'altra parte le notizie erano già molte, a cominciare dalla bocciatura del referendum, dal voto alla Camera dei Deputati che nega l'arresto del deputato PDL Cosentino, con un'ulteriore spaccatura all'interno della Lega, ma anche il grande tema del fondo salva stati, la missione europea di Mario Monti che a metà settimana ha avuto un passaggio molto importante nell'incontro con il cancelliere tedesco Angela Merkel, e poi la crisi ungherese di cui abbiamo parlato e parleremo in diversi appuntamenti. Insomma, e poi le dimissioni, una parola che quasi avevamo dimenticato, le prime dimissioni all'interno dell'esecutivo. Ecco, cari amici di Punto a Capo, anche questa insomma è stata una settimana davvero ricchissima di notizie. Allora, noi ripartiamo dal tema referendario e partiamo con un servizio realizzato da Alessandra Schepisi. I quesiti sono inammissibili e non ci sarà nessun referendum, ma l'attuale legge elettorale va comunque rivista. Quello della consulta è un doppio no accompagnato, così sembrerebbe, da un invito al Parlamento a sanare le anomalie del Porcellum. Un monito che in serata arriva anche dal capo dello Stato, secondo il quale spetta ora ai partiti e al Parlamento modificare la legge secondo esigenze largamente avvertite dall'opinione pubblica, una posizione condivisa con i presidenti di Camera e Senato che Napolitano ha incontrato ieri sera. Ma i partiti, almeno a parole, si dicono disponibili ad una riforma. Abbiamo depositato la nostra proposta, dice il segretario del PD Bersani, e siamo pronti al confronto. Caute aperture dal PDL. Il Porcellum è una buona legge, dice Berlusconi, ma occorre migliorarla, il vicepresidente della Camera Maurizio Lupi. Credo sia comunque indispensabile, appunto dopo questa sentenza della Corte, che il Parlamento proceda autonomamente alla riforma della legge elettorale. Intanto Di Pietro, uno dei più convinti animatori della consultazione popolare, è furioso e se la prende con il capo dello Stato. Una scelta, soprattutto quella sul secondo quesito, che non ha nulla di giuridico, nulla di costituzionale, ma solo una scelta politica e di piacere al capo dello Stato. Accuse che il Quirinale bolla come insinuazioni volgari e del tutto gratuite, che denotano solo scorrettezza istituzionale. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Insomma, sono stati veri e propri fuochi tra Di Pietro e il Quirinale. Gli ambienti del Quirinale, appunto, come avete sentito, hanno parlato di una volgare insinuazione. Per quanto riguarda il tema della politica, c'è stato un altro evento che ha fatto discutere, addirittura litigare, e che ha coinvolto ancora una volta in maniera particolare la Lega. Punto e a capo. Il caso Cosentino, dunque la notizia naturalmente è quella del voto alla Camera, quindi il no del Parlamento alla concessione dell'arresto, ma per raccontare in fondo un po' ciò che questa vicenda sta provocando all'interno della Lega, è bene ricordare quello che a inizio settimana aveva detto l'ex ministro degli interni Roberto Maroni. Sentiamolo. È stata la relazione dei nostri due membri della Giunta che hanno espresso la convinzione, dal loro punto di vista, che non esista fumus persecutionis nei confronti del parlamentare, e quindi esprimeranno un voto favorevole in Giunta, favorevole alla richiesta di arresto, di custodia cautelare. Questo dunque a inizio settimana, poi le cose sono andate diversamente. Sentiamo Servizio. Tra polemiche a distanza e risse sfiorate tra maroniani e uomini del cerchio magico, il voto su Cosentino alimenta nuove tensioni nella Lega Nord. Pur confermando il sì all'arresto deciso lunedì dalla segreteria politica del Carroccio, ieri Umberto Bossi ha scelto di lasciare libertà di coscienza ai deputati leghisti per il voto in aula. Un mezzo passo indietro, insomma, un dietrofront accompagnato anche da perplessità sulle accuse mosse dalla magistratura a Cosentino, che non è piaciuto a Maroni, favorevole invece all'arresto del deputato campano. Io non ho condiviso questa posizione di libertà di voto. Io ho ricevuto molti messaggi negativi su questa posizione e di apprezzamento per la posizione di chiarezza che io ho espresso. Immediata la replica di Bossi, assente in aula al momento del voto su Cosentino. Maroni è scontento, non è che per questo piangiamo, ha commentato il leader leghista. La storia della Lega non è mai stata forcaiola comunque. Quindi libertà di coscienza nel dubbio votare sì. Bossi ha anche spiegato che la base della Lega non è poi così vicina ai magistrati ed ha assicurato che non è stato il pressing di Berlusconi a fargli cambiare idea sull'arresto di Cosentino. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Durissima anche Stefania Craxi nei confronti di Di Pietro, proprio su questa vicenda. Dice: Antonio Di Pietro ha costruito la sua misera carriera politica utilizzando gli stessi metodi usati da magistrato, ha fatto della demagogia la propria bandiera, ha regalato all'Italia il morbo del giustizialismo. Così, secondo Stefania Craxi, secondo cui l'ex PM rappresenta addirittura il cancro della politica italiana. Insomma, tensione altissima, nervi scoperti, questo sul fronte della politica, e naturalmente torneremo a parlare e gli effetti, diciamo, di questa decisione sugli schieramenti nell'emiciclo non si sono di certo ancora consumati. Ecco, invece a metà settimana, mercoledì 11 gennaio, abbiamo vissuto un passaggio chiave che riguardava l'Italia, ma non solamente, l'Ungheria, per chi, come è capitato a me, ha seguito anche da un'altra prospettiva questa settimana politica internazionale. Ma di certo, importantissimo, mercoledì c'era l'atteso, c'è stato l'atteso incontro tra il presidente del Consiglio italiano Mario Monti e il cancelliere tedesco Angela Merkel. Noi non vogliamo una crescita effimera che sia fondata su provvedimenti occasionali di rilancio, come tante volte è avvenuto in passato e che hanno spesso dato luogo a disavanzi, a inflazioni e a patologie varie. Noi vogliamo una crescita che derivi da una struttura economica sana. Questo accadeva a Berlino, e a Berlino il corrispondente del Sole 24 Ore, Gerardo Pelosi, sentiamolo. Il condizionale è d'obbligo, ma se i gesti, le occhiate e soprattutto il linguaggio di Mario Monti e di Angela Merkel nel palazzo della Cancelleria di Berlino questa mattina hanno qualche significato, possiamo dire davvero di essere vicino a uno di quei momenti magici dell'Europa che è capace di risollevarsi quando tutti la davano ormai per spacciata. Un momento di quelli che possono contribuire a cambiare la storia della più bella costruzione dell'umanità, come l'ha definita il premier italiano. Nel dicembre 89, davanti a un caminetto in terra francese, il cancelliere tedesco Helmut Kohl chiedeva la riunificazione tedesca, accettando l'euro. E oggi, 22 anni dopo, la cancelliera tedesca capisce la responsabilità che ha nel risolvere i problemi dell'eurozona. Il 20 gennaio a Roma la cancelliera Merkel, insieme al presidente francese Sarkozy e al premier italiano Mario Monti, metterà nero su bianco un accordo che possa servire per creare quel muro di fuoco in grado di frenare la speculazione internazionale, un accordo che dovrebbe creare le migliori sinergie tra il nuovo ESM, il European Stability Mechanism, e la BCE. Gerardo Pelosi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Berlino. Questo era appunto Gerardo Pelosi da Berlino nel pomeriggio di mercoledì, quando anche appunto a seguito di questo incontro, di questo scambio, della frase di Angela Merkel in cui dice l'Italia non rappresenta più un pericolo per l'Unione, si cominciava a intravedere una schiarita su un ampio fronte e quindi si invocava anche esplicitamente una riduzione degli spread. Tutto andava piuttosto bene, si fa per dire così in maniera abbastanza semplicistica, fino a che a fine settimana la turbolenza dall'agenzia di rating si sposta di nuovo in termini di downgrade sulla Francia, ma questa naturalmente è attualità. Noi intanto torniamo invece a parlare del governo Monti. Lascia l'incarico dopo 44 giorni Carlo Malinconico. Le dimissioni dell'ormai ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria arrivano al termine del faccia a faccia con il premier Monti. Una decisione di fatto scontata, quella di Malinconico, chiamato a spiegare il perché avrebbe soggiornato per 3 volte, a partire dal 2007 in un lussuoso albergo di Porto Ercole, a spese della cosiddetta cricca del G8. Veramente benissimo, ottimo il tutto, e quindi ti volevo veramente di cuore ringraziare. Nell'intercettazione Malinconico, all'epoca alto funzionario di Palazzo Chigi, ringrazierebbe Angelo Balducci, allora presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dopo un soggiorno all'hotel Pellicana all'Argentario saldato da Francesco De Vito Piscicelli per conto dello stesso Balducci. De Vito Piscicelli, noto anche per l'intercettazione in cui la notte del terremoto all'Aquila ride pensando ai futuri appalti per la ricostruzione, si rivolge poi così in un'altra registrazione all'albergatore dell'hotel Pellicano, Roberto Sciò. Sì, Roberto, l'ultima cortesia. Dici al capo di ricevimento alla, sì. Che naturalmente poi faccio io, passo io, vediamo sì, tutto sì, insieme. Sì, sì, sì, sì. Non ho mai fatto favori, la mia condotta è stata corretta, spiega Malinconico al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio. Lascio l'incarico a Palazzo Chigi, aggiunge, anche per salvaguardare la credibilità del governo. Dal premier un ringraziamento a Malinconico per aver anteposto l'interesse pubblico ad ogni altra considerazione. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Insomma, prime dimissioni, e si può senz'altro dire anche in uno stile tutto Monti, nel senso che tutto si è risolto in poche ore con un esito che, l'abbiamo detto anche all'inizio della puntata, abbiamo perso davvero di vista, cioè quello di dare le dimissioni. Ogni tanto capita. Torniamo a parlare invece di fisco, di lotta all'evasione, ne parliamo molto qui a Radio 24. Un'agenzia ci spiega, ci racconta che i poteri di controllo conferiti negli ultimi anni all'Agenzia delle Entrate, in particolare quelli che risultano dal recente decreto cosiddetto Salva Italia, sono da considerare eccezionali. Così spiega il garante della privacy, il professor Franco Pizzetti, che ha toccato il tema intervenendo ieri mattina al seminario organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura sul tema delle intercettazioni. Stiamo consentendo all'Agenzia delle Entrate, ha osservato, di avere e incrociare informazioni molto al di là delle normali funzioni di un soggetto incaricato del controllo ai fini fiscali. Ma su questo tema noi invece torniamo a inizio settimana, quando Piero Ostellino, già direttore editorialista del Corriere della Sera, è stato nostro ospite. Ma sono terrorizzato da quello che dice il magistrato. Dice, ma dove si va a cercare l'evasore? Dove presumibilmente c'è l'evasore? Benissimo. Allora, per combattere la criminalità, fra poco il magistrato suggerirà alla polizia di tutti i mesi venire nelle nostre case, in tutte le case degli italiani, per vedere se per caso c'è la refurtiva. Ma l'evasione fiscale va cercata dove c'è fumus criminis. Cioè dove c'è il sospetto che sia stato evaso il fisco. Ma come si fa allora, Rossellino? Cioè, ma si fa, fa con i mezzi della fiscalità, cioè con i controlli incrociati. Con la telematica ormai siamo in grado di sapere quanto spendiamo ogni giorno. Però se ci controllano i conti correnti si dice che è un'invasione il controllo della privacy, se ci tracciano il contante che non si deve tracciare il contante. Siamo gli unici in Europa con la Grecia dove non ci sarà più il segreto bancario. Allora io le dico quello che succederà, perché succederà in questo paese. Dal primo di gennaio i conti correnti sono conosciuti dall'Agenzia delle Entrate. e l'Agenzia delle Entrate vedrà come sono stati i movimenti di tutti gli italiani. Allora, prima o poi, siccome questo è il paese che è, prima o poi qualcuno, non dico qualcuno dell'Agenzia delle Entrate, dico qualcuno che sarà venuto a conoscenza dei movimenti di soldi del suo di lei che sta parlando conto corrente. Si lo utilizzerà. Aspetti, mi lasci finire. Vedrà che lei ha passato due notti a Villa d'Este e si chiederà: ma l'ha passati con sua moglie o li ha passati con l'amante? Allora incaricherà la polizia di Como di andare a vedere se le ha passate con l'amante. Sì. Siamo già in pieno stato di polizia. La polizia va a constatare che l'ha passate con l'amante. Lei riceverà dopo un po' una telefonata che le dirà: senta, secondo lei sua moglie, se noi le facessimo sapere che ha passato due notti a Villa d'Este con l'amante, come la prende? Lei risponde: beh, certo, la prenderebbe male. Beh, guardi, se ci dà 100.000 euro noi non lo diciamo. Oh, succederà. Questo è lo scenario che... Punto, perché questa è un'invasione dello stile di vita della gente. Allora, guardi, Insomma, questo è un po' lo scenario davvero inquietante, un po' da Germania Est, che prefigura Piero Ostellino. Questo naturalmente era uno dei passaggi del suo intervento a inizio settimana con Alessandro Milan, l'avete riconosciuto, a 24 mattina. Intanto, a proposito di Villa d'Este e alberghi lussuosi, emergono nuovi dati che ci spiegano che il potere d'acquisto delle famiglie italiane continua a calare. Un reddito che cammina, sì, ma non galoppa quanto l'inflazione. La conclusione è che alla fine il potere d'acquisto delle famiglie italiane è in calo. Nel terzo trimestre del 2011 il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e del 2,7% su base annua. Ma, fa sapere l'Istat, al netto dell'inflazione il potere d'acquisto delle famiglie è invece diminuito dello 0,3% sui tre mesi precedenti e dello 0,1% sul terzo trimestre 2010. Cala anche la propensione al risparmio. Complice la crisi economica, la propensione a mettere via dei soldi definita dal rapporto tra risparmio lordo delle famiglie e il loro reddito disponibile si è attestata all'11,6%, in lieve diminuzione sia rispetto al trimestre precedente che al terzo trimestre del 2010. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo dunque da Valentina Furlanetto. Non mi stanco mai di ricordarvi il lavoro che sta facendo proprio Valentina Furlanetto con Radio 24 sul fronte dell'evasione. Insomma, l'Italia nascosta, di fatto l'Italia dell'evasione. Tutto un lavoro che ormai va avanti da alcuni mesi e che trovate raccolto nel nostro sito web, attraverso il nostro sito web, naturalmente, radio24.it. Punto e a capo. Rieccoci qua, ancora un saluto da Gigi Donelli, da Fabio Cantadori in regia. Notizie dal mondo non sono purtroppo molto buone, molte parlano di crisi del debito. Su questo tema sono quelle che arrivano dalla Grecia, dove si parla appunto di uno stallo nelle trattative sul debito. L'Istituto di Finanza Internazionale, che ha avviato le trattative con Atene per conto delle banche, ha annunciato ieri di aver sospeso le negoziazioni in quanto i colloqui non hanno portato a una risposta costruttiva dalle parti. Per questo motivo l'IIF ha deciso per una pausa di riflessione. Questa è la classica frase, no, che si dice in certi momenti, ma insomma una pausa di riflessione su questo tema con Atene. È dello stesso tenore, anche che naturalmente con delle caratteristiche molto diverse, la settimana che abbiamo raccontato dall'Ungheria, un paese dell'Unione Europea evidentemente, non all'interno dell'euro, un paese attraversato da una forte crisi economica e da una forte, complessa crisi politica. Adesso non approfondiamo, ma vi segnalo che oltre al reportage che è andato in onda questa mattina, abbiamo un appuntamento alle 19.30 all'interno di 30 minuti in cronaca, in cui cerchiamo di chiarire, di approfondire, anzi, senza eccedere nelle pretese, appunto di illuminare un po' quelle zone del nostro continente che per una ragione o per l'altra restano a noi totalmente oscure. Ed ora invece andiamo alla cronaca, la cronaca drammatica che il nostro Alberto Negri, inviato del Sole 24 ore in Siria, ci porta proprio dalla capitale, dal cuore dello Stato siriano, Damasco. All'hotel Ferdows di Damasco, ormai svuotato di giornalisti, l'ultima rimasta è Mireil Binader, che insieme a Gilles Jacquier di France 2 ucciso l'altro giorno a Homs da un colpo di mortaio. Raccolgo la sua testimonianza. Gilles è morto da eroe, proteggendomi col suo corpo dalle schegge mentre stavamo fuggendo. Il governo di Damasco sulla morte del giornalista francese ha annunciato una commissione d'inchiesta che lascerà ovviamente le cose come stanno, con molti interrogativi oppure con risposte che fanno comodo al regime. La Siria di Bashar Assad appare sempre più isolata. Gli Stati Uniti hanno invitato gli americani a lasciare immediatamente il paese e anche gli osservatori della Lega Araba appaiono scoraggiati dal loro arrivo. La violenza non si è fermata né si intravedono soluzioni politiche. Un anno dopo la caduta di Ben Ali in Tunisia e l'inizio della primavera araba, anche Assad sembra entrato in caduta libera. Ma le cose stanno davvero in questo modo? Fino a quando le forze di sicurezza e l'esercito continueranno a sostenerlo, resterà il re siriano. La vera questione è sapere quale prezzo pagherà la Siria, un mosaico di confessioni di etnie nel cuore del Medio Oriente. La Casa Bianca nega categoricamente di aver avuto alcun ruolo nell'assassinio dello scienziato nucleare iraniano Mustafa Ahmadi di Roshan. Questa è la posizione ufficiale in una settimana che ha visto ancora una volta un attentato esplosivo contro una delle figure, appunto, che all'interno, tutto questo è accaduto a Teheran, dicevo, una delle figure che partecipa alla costruzione del progetto nucleare della Repubblica Islamica. E a proposito di Stati Uniti, adesso andiamo a sentire il racconto di Mario Platero sulle primarie nel New Hampshire. Vittoria storica per Mitt Romney nel New Hampshire, lo ha detto lo stesso candidato repubblicano per la nomination. Perché storica? Perché è riuscito a vincere in Iowa ed è riuscito a vincere anche in New Hampshire, con una percentuale tra l'altro molto forte, il 39%, quasi un 16% in più rispetto alla combinazione del numero 2 e numero 3. È andato abbastanza bene anche Ron Paul con il 23% dei risultati, meno bene John Huntsman con il 17%, pur sempre un risultato molto onorevole. Però a questo punto ci sarà quasi sicuramente, dopo la Carolina del Sud, dopo la Florida, l'uscita di almeno un paio di candidati, sicuramente Perry, molto probabilmente Huntsman, mentre invece Gingrich, Santorum, Ron Paul continueranno fino in fondo, una corsa a quattro questa che finirà di nuovo per agevolare Mitt Romney, ormai candidato quasi certo per la nomination del Partito Repubblicano contro Obama. Mario Platero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, a Manchester, New Hampshire, alle primarie repubblicane. Due anni fa il terremoto che devastò Haiti, uccidendo tra 200-300 mila persone. Qual è la situazione oggi? Ne ha parlato a prima edizione il nostro appuntamento, insomma il nostro primo appuntamento con l'informazione del mattino. Ne ha parlato, dicevo, Stefano Argenziano, che è capo missione di Medici Senza Frontiere ad Haiti, intervistato in studio da Simone Spezia. Abbiamo ancora circa 500.000 persone che vivono in campi di fortuna. L'interesse fondamentale è quello di capire cosa succede oggi e cosa succederà a partire da oggi per quello che è il secondo elemento importante in questo paese dopo, a partire dal terremoto di 2 anni fa, che quindi è l'epidemia di colera. Quanti malati di colera, quanti nuovi contagi, avete una vaga idea ci siano ogni giorno? Quante persone approdano nelle vostre strutture per questa malattia? Trattiamo circa 200 casi per settimana. Sono, diciamo, dei numeri minori rispetto a quello che era qualche mese fa. Semplicemente c'è da considerare che ci troviamo ora nella stagione secca La pioggia sarà un elemento fondamentale, un elemento di rischio fondamentale nella possibilità di aumento dei casi. Lei ci dice che in questo momento state curando 200 persone a settimana in fase di stagione secca. La prima domanda è quando inizia la stagione umida. La seconda domanda è se vi siete fatti un'idea, date le condizioni sul terreno, di che incremento ci possa essere all'arrivo della stagione umida. La stagione umida si prevede, l'inizio della stagione umida, la stagione delle piogge, si prevede verso aprile-maggio. Abbiamo già assistito a questo fenomeno l'anno scorso. L'anno scorso trattavamo nei nostri centri numeri al circa di 1500-1200 casi per giorno. Haiti dunque, e infine ci spostiamo infine per la pagina internazionale, in Nigeria, Kano, dove due persone sono morte ed alcune moschee sono state bruciate in seguito ad un attacco ad un villaggio a maggioranza musulmana nel nord-est della Nigeria. Si tratta dell'ultimo episodio delle violenze religiose che hanno colpito il paese, contro le quali è intervenuta in settimana anche l'ONU. Una folla venuta da Imbur, un villaggio cristiano, ha attaccato il villaggio di Gualam, così raccontano alcuni testimoni. Hanno incendiato le case e le moschee. Ci sono due morti, hanno detto appunto i racconti dalla Nigeria, ma ignoriamo la sorte di chi è fuggito nei campi. Punto e a capo. La cronaca ci riporta in Italia uno degli episodi più orribili, direi senza dubbio, della settimana. Bene, l'avrete sentito tutti, un caso appunto in cui alla violenza si somma la brutalità, la stupidità, il caso di un vigile urbano che è stato ucciso a Milano. Sentite. Era un controllo come tanti quello che stava facendo ieri il vigile urbano Nicolò Savarino, 42 anni. Intorno alle 18, insieme a un collega, stava parlando con il proprietario Sinti di un camper parcheggiato da giorni davanti alla stazione ferroviaria della Bovisa, periferia nord di Milano. Accanto a loro si è messo in moto un SUV BMW X5 che, passando, ha schiacciato il piede del nomade. I vigili hanno intimato al conducente di fermarsi, ma il guidatore del SUV ha proseguito. A quel punto Savarino si è parato davanti all'auto con la bicicletta per bloccarla, ma è stato travolto e trascinato nella corsa per 300 metri. Trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, è morto poco dopo. La bicicletta, rimasta incastrata nel SUV, è stata ritrovata a circa un chilometro di distanza. Antonio Barbato, capo di gabinetto della Polizia Locale di Milano. Non sappiamo la dinamica dell'abbandono della bicicletta, non abbiamo ancora dati su questo, però insomma il fatto che abbia trasportato una persona in una bicicletta per centinaia di metri e poi abbia continuato la corsa, cioè, tutto fa pensare ovviamente a quello che è accaduto. Cioè un omicidio, un vero e proprio omicidio. Siciliano della provincia di Agrigento, Savarino era in servizio nella Polizia Municipale di Milano da 10 anni. Superiori, colleghi e conoscenti concordano nel definirlo corretto, competente e riservato. Faceva volontariato con i disabili, ma erano in pochi a saperlo perché, sottolinea un amico, non amava farsi pubblicità. Lascia la compagna con la quale abitava a Rho. Roberta Pellegatta, Radio 24 e Sole 24 Ore. E su questo caso una nota che dal PM per il momento, dice appunto il PM, abbiamo identificato il proprietario del SUV che risulta però irreperibile. Così il procuratore aggiunto di Milano Nicola Cerrato, in contatto con il sostituto Mauro Clerici, che coordina le indagini sull'uccisione del vigile. Ecco, da Milano ora ci spostiamo a Roma, Tor Pignattara, protagonista, o meglio scenario, di un duplice efferato omicidio di padre e figlia. Il servizio. Uno di loro potrebbe essere fuggito a Milano o forse all'estero. Gli inquirenti sono comunque convinti che verranno presto rintracciati i due marocchini accusati dell'omicidio di Tor Pignattara. Sui loro nomi resta il riservo. Nei confronti dei due la Procura di Roma ieri ha emesso un decreto di fermo, un provvedimento che permetterà di estendere le ricerche anche oltre confine. Ai due marocchini i carabinieri sono arrivati partendo dalle immagini riprese da una telecamera di una banca. Ad incastrarli poi sono state anche le loro impronte digitali e le tracce di DNA isolate dalla RIS sui reperti ritrovati in un casolare disabitato non lontano dal luogo della rapina, costata la vita al commerciante cinese Zhu Zheng e alla figlia Joy di soli 9 mesi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Eccoci qua nell'ultima parte di questo nostro appuntamento con Punto e a Capo. Parliamo di taxi. È stata una settimana molto vivace qui negli studi, nei telefoni, nelle linee telefoniche di Radio 24. Si è parlato spesso di e con i tassisti e, come probabilmente sapete, il 23 di gennaio, il giorno che è stato scelto per quello che appunto sembra essere lo sciopero nazionale unitario dei tassisti italiani. Il punto su questa vicenda ce la fa la nostra Alessandra Schepisi. Ci pensino bene, ci pensino bene quello che stanno facendo, perché non è questo il modo. Che la gente ha una visione del nostro lavoro come se fosse: oh, guarda questo. Ma siamo dei lavoratori, ragazzi, siamo dei lavoratori. Siamo noi a difendere il nostro diritto al lavoro, la nostra dignità, a salvaguardare il nostro futuro. Sono arrivati a Bologna da ogni parte d'Italia, presenti tutte le sigle sindacali, una lunga e tesa discussione, quella all'interno del cosiddetto parlamentino dei tassisti, e alla fine ha prevalso la linea dura: sciopero nazionale unitario il 23 gennaio e poi presidi e blocchi in varie città e un'assemblea nazionale al Circo Massimo a Roma lunedì prossimo. In quell'occasione una delegazione si recherà presso la sede dell'antitrust per contestare le cifre contenute nella relazione e sulle quali si basa il piano del governo per la liberalizzazione del settore. In particolare, nel mirino è la proposta dell'Authority di aumentare il numero delle licenze, dando la possibilità agli attuali titolari di vedersene assegnata un'altra gratuitamente, in modo da essere così ricompensati. Proposta duramente contestata dai tassisti. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a Roma restiamo, parlando addirittura di Colosseo, con Andrea Viali. Non sembra esserci pace per i lavori di restauro del Colosseo. Dopo un esposto presentato dalla UIL, la Procura di Roma ieri ha aperto un'inchiesta sull'accordo di sponsorizzazione raggiunto con la TOZ. Era stato siglato un anno fa dall'allora commissario straordinario per l'archeologia Roberto Cecchi, oggi sottosegretario ai beni culturali. L'ipotesi di reato è quella di abuso d'ufficio. In base alla convenzione, l'azienda di Della Valle si era impegnata a versare 25 milioni di euro per i lavori in cambio dell'acquisizione in esclusiva per 15 anni dei diritti di sfruttamento dell'immagine del monumento. Secondo la UIL, però, quell'accordo rappresenta di fatto una dismissione del Colosseo. Nei giorni scorsi anche l'antitrust aveva espresso riserve sulla trattativa privata con la quale si era arrivati all'intesa, sulla quale indaga anche la Corte dei Conti. In attesa di essere sentito in procura, il sottosegretario Cecchi si è detto sereno ed ha assicurato di aver lavorato per il bene pubblico. Se vogliono che il Colosseo cada a pezzi, lo dicano. Ha invece sbottato il sindaco Alemanno, preoccupato per il rischio di ritardi nell'avvio dei lavori di restauro. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Da Roma a Casale Monferrato per parlare di amianto, una storia quasi antica, una storia industriale, una storia che è diventata una lunga emergenza sanitaria che non si riesce ancora a chiudere. Alessio Maurizi. Dal 1992 in Italia c'è il bando all'uso dell'amianto. I lavoratori di Casale Monferrato, dove il materiale impiegato in edilizia veniva prodotto, si sono battuti per questo risultato dopo la scoperta dei gravi mali provocati alla salute. Qualche giorno fa il comune di Casale, che aveva accettato una compensazione economica in cambio del proprio ritiro dal processo a carico dell'Eternit, ha fatto sapere che se il governo interverrà, il comune non si ritirerà dal processo, come chiesto dai familiari delle vittime. Ma l'amianto continua a preoccupare. Anche a molti anni di distanza, prima di Natale il Tribunale di Padova ha deciso di mandare a processo i vertici della Marina Militare per la morte di due ex alti ufficiali. Nonostante la legge del 92, infatti, l'amianto sarebbe stato ancora presente sui caccia torpedinieri Ardito e Audace. Altri due processi alla Marina si stanno svolgendo sempre a Padova e a Brescia. E sempre in questi primi giorni del 2012 altre due vicende legate all'amianto stanno venendo alla luce. A Ferrara il semplice smaltimento di una discarica a Vigarano allarma i cittadini. Se tra i rifiuti c'è l'amianto, sostengono, occorre un trattamento speciale. Ad Avellino invece la procura starebbe aprendo un'indagine sulla fabbrica di Piano d'Ardine, dove sono state bonificate le carrozze ferroviarie piene di amianto senza adeguate protezioni. Alessio Maurizi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. Povero pato. Il Milan è la mia casa, dice il papero. Giusto, ma anche una grande famiglia. Questo è il ballo del quaquà. Pato al Paris Saint-Germain, tuona l'équipe, imbroglio, insomma, lo scandalone calcistico di questa settimana è la chiusura, di fatto, con un nulla di fatto, del trasferimento del giocatore brasiliano dal Milan al Paris Saint-Germain. I francesi naturalmente ci sono rimasti male, ma insomma si vedrà, non è la prima volta che questi diciamo balletti di campioni tra grandi squadre poi prendono altri percorsi, e quella che avete sentito prima naturalmente è la versione graffio curata dal nostro Dario Ceccarelli. Bene, siamo verso la conclusione, ma come facciamo sempre in questa parte del nostro programma, è anche tempo di parlare di cultura, di spettacoli, di cinema, di TV, e questa mattina anche di nuovi programmi di Radio 24. Allora, con noi Marta Cagnola. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Io ti proporrei di parlare di cinema questa mattina, visto che ci sono un po' di uscite cinematografiche italiane. Andiamo un po' a curiosare poi in quello che, appunto, di cui abbiamo parlato questa settimana. Io partirei con Giuliano Montaldo, perché lui è uscito con questo film di grandissima attualità. Ti dico solo che la sua frase più significativa di questa settimana commentando questo film è stata: Sergio Marchionne non conosce gli operai come il protagonista del mio film. Perché? Perché il protagonista del suo film, L'Industriale, appunto, si intitola così, è un figlio di industriali, cresciuto in fabbrica alle prese con la crisi. Quindi, insomma, un film di strettissima attualità. Peraltro, immaginati che film e dischi, quando vengono scritti, non, insomma, vengono pensati molto tempo prima. Quindi, in un certo senso, Giuliano Montaldo ci aveva visto giusto. Ma magari ascoltiamo insieme cosa ci ha raccontato proprio il regista Giuliano Montaldo. C'è proprio una distanza che, a mio avviso, se continua così, è incolmabile. Perché un conto è essere Marchionne, i suoi operai sono dei fantasmi, non li conosce. D'altra parte, è anche immaginabile fare la sfilata mattutina. Uno che invece ha un rapporto così con gli operai, che riconosce tutti, è un altro tipo di mondo, un altro tipo. E non può né l'uno immaginare di essere l'altro e viceversa. Ognuno deve riprendere i propri ruoli, ma anche quello dell'uomo, del compagno di vita, del marito, della lealtà, e capire che il silenzio non sempre paga. D'attualità, direi che insomma ci aveva visto giusto e lungo. Decisamente. Poi Favino è molto bravo, quindi questo è uno dei film da andare a vedere. Io direi proprio di sì, non solo, insomma, Favino, Crescentini, secondo me sono tra gli attori più interessanti in questo momento. Ma questo fine settimana esce anche un film decisamente singolare. Devo dire subito che esce soprattutto nelle sale di Roma e Napoli, però magari con un po' di tam tam si riesce a farlo arrivare anche nelle altre città. Ti faccio sentire un pezzettino di questo film. Napoli è cambiata da così a così, lavavetri che fanno lo scontrino, non si vede una cicca per terra, tutti mettono il casco. Ma com'è potuto accadere? Finalmente è successo con Nicolino Amore. Finalmente è successo con Nicolino Amore. È un documentario, anzi un finto documentario, in inglese si chiamano mockumentary. La voce che hai sentito era questa proprio quella di Renzo Arbore. Cosa succede? Enrico Caria ha portato questo film al Festival di Torino, adesso esce in qualche sala, ma insomma va sostenuto e speriamo di vederlo in sempre più schermi in tutta Italia. Insomma, ha realizzato questo mockumentary, finto documentario, che si intitola L'era legale. Questo documentario racconta l'incredibile ascesa nel 2020 di Nicolino Amore a sindaco di Napoli. È la storia di un masaniello che sconfigge la camorra e rende la città un modello invidiato in tutto il mondo, appunto, come abbiamo sentito, con collaborazioni eccellenti. Sentiamo cosa ha raccontato Enrico Caria. È una favola, è un sogno. E siccome quello dell'illegalità credo che sia ormai veramente il discrimine nella contemporaneità, più ancora che fra destra e sinistra, credo che il vero discrimine sia fra la legalità e l'illegalità, sia nelle azioni concrete e spicciole, ma soprattutto a livello culturale. La Rossellini, Arbore, De Cataldo, gli ho chiesto di giocare, di tenermi il gioco, di dare rigomito al mio personaggio per rendere più credibile questa finta biografia. Un altro regista, quindi, insomma, che ha interpretato l'Italia, che ha interpretato, anche se in chiave molto fantasiosa, appunto con questo espediente del mockumentary, la nostra situazione di tutti i giorni. Insomma, due film che raccontano l'Italia, ognuno a suo modo, e due registi che ci hanno visto giusto, secondo me. E facciamolo venire a nord questo film, che sembra decisamente simpatico e interessante. Ecco Marta, prima di chiudere però voglio anche parlare di cambiamenti nel nostro palinsesto che riguardano te, che riguardano Cristina Carpinelli e altri colleghi. Allora cominciamo dal tuo, domani novità all'ascolto. 8:39 del mattino, il titolo è un po' particolare, però chi è abituato ai social network capirà subito perché. Si intitola 140 caratteri perché in 140 caratteri è contenuto un tweet, cioè un messaggio su Twitter. Cosa succede? Succede che tutta la settimana io regolarmente viaggio per conferenze stampa, per eventi, per appunto seguire tutti gli eventi per Radio 24. Cosa succede? Che io da lì regolarmente twitto tutto quello che succede, quindi basta seguire il mio Twitter, Marta Cagnola, è semplicissimo, per avere un aggiornamento in tempo reale. E la domenica mattina ascoltiamo insieme le interviste. Ovviamente chi vuole mandarmi domande in diretta mentre sto seguendo gli eventi, insomma, sarà accontentato, potrò fare tutte le domande che gli ascoltatori desiderano in tempo reale. Insomma, abbiamo la reporter on demand in versione davvero al massimo dell'innovazione possibile. Abbiamo anche la prima volta di Cristina Carpinelli, che sembra un gioco di parole, ma la prima volta è il nome del programma che appunto fa il suo esordio domani. Tutto questo nel nuovo palinsesto del fine settimana di Radio 24, e con questo noi siamo arrivati davvero alla conclusione. Mi resta davvero di ringraziare e salutare Fabio Cantadori in regia, ringraziare tutti voi che siete all'ascolto. L'appuntamento con Punto a Capo, come sempre, sabato prossimo, naturalmente a partire dalle 9:10 circa. Un ottimo fine settimana a tutti voi.